Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Se andiamo a guardare sul mercato, un buongiorno per modo di dire, quello di stamattina. In realtà la giornata era iniziata meglio, con un tentativo quantomeno di tenuta da parte delle borse europee dopo i cali molto forti, molto netti di ieri, e poi a metà mattinata invece peggioramento improvviso. Ecco il quadro: Parigi perde il 2,53%, Francoforte perde l'1,50%. 58%, Londra meno 2, Milano tra le peggiori piazze d'Europa sta perdendo il 2,58%, e naturalmente non se la sta passando meglio la borsa spagnola, come l'ha definita poco fa la collega Valentina Furlanetto, l'epicentro della crisi delle ultime due giornate. L'Ibex in questo momento sta segnando, l'Ibex 35, una flessione del 2,34%. Ecco, vediamo che non è neanche la peggior piazza d'Europa, perché appunto questa palma stamattina spetta a Milano e spetta a Parigi. Allora, quali sono le motivazioni che stanno rideterminando questa scossa sui mercati internazionali? Sono i timori sulla solidità del debito di alcune economie europee, una serie di preoccupazioni appunto che per la verità ci sono già da diverse settimane, ma che ieri si sono propagate improvvisamente. Ieri l'ondata di vendite che si è abbattuta sulle borse europee si è scatenata da ciò che è successo in Spagna, dove un'asta di titoli di Stato a 3 anni, nonostante una domanda elevatissima, si è conclusa con rendimenti schizzati di 0,5 percentuale. L'effetto domino poi è stato istantaneo: in sostanza gli investitori volevano sì titoli di Stato spagnoli, ma hanno chiesto al governo appunto rendimenti molto più alti a costo di disertare l'asta. L'effetto domino è stato istantaneo. I mercati, appunto, vi dicevo, hanno cominciato a registrare perdite sempre più significative nel corso della giornata, e alla fine in Europa sono andati in fumo 128 miliardi di capitalizzazione. Wall Street ha registrato il peggior ribasso dal 20 aprile dello scorso anno e ha chiuso per la prima volta da inizio novembre al di sotto dei 10.000 punti. Poi nella tormenta è finito anche l'euro, per la verità c'è anche questa mattina, scivolato rispetto al dollaro ai minimi dal giugno scorso, tanto che stamattina si è anche appreso che la Banca Centrale Svizzera in Asia sarebbe intervenuta vendendo franchi proprio per sostenere le quotazioni della moneta unica europea. Insomma, il quadro, lo avete capito, si è rifatto di nuovo un po' delicato. Avevamo già visto il nervosismo ripiombare sul mercato con la crisi di Dubai lo scorso autunno, era durato poco. Poi, quando è stata ammessa la gravità delle condizioni delle finanze pubbliche greche, le preoccupazioni si sono ripresentate e ieri si sono rifatte particolarmente vigorose. Certo che gli stati, dopo aver salvato banche a destra e a manca, avrebbero fatto presto i conti con la crisi, era qualcosa di già straannunciato, ma oggi noi vorremmo capire se questa tensione rientrerà o se quest'anno invece dovremmo addirittura vivere nel terrore della bancarotta di qualche Stato europeo. Ci sembra assolutamente impensabile, ma di certo i titoli di Stato delle economie dell'Eurozona sull'otto volante ci finiranno di sicuro, e il rischio paese dell'economia dell'Eurozona diventerà il centro del dibattito appunto dei prossimi mesi. Allora, stamattina tutto questo lo commentiamo, intanto se vorrete anche con le vostre considerazioni all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Commenteremo appunto questa situazione questa mattina con Giuseppe Marzi, amministratore delegato di Schroders Italy Sim, responsabile per questa casa anglosassone appunto anche del private banking in Italia. Marzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere ritornato a Salva Danaio. Ultimamente ho questa cattiva abitudine di chiamarla sempre in situazioni frangenti di emergenza. Sì, non è che sia un bel segno questo, no? Poi viene dopo la tua trasmissione che ho sentito stamattina sulle pile scariche, quindi... Ecco, guarda, proprio un filo conduttore del tutto involontario, però insomma questa mattina siamo un po'... Dobbiamo però anche cercare di sollevare l'umore dei nostri ascoltatori, azionari che non sono molto contenti, quando ovviamente dobbiamo enfatizzare in maniera negativa questi momenti di mercato, che comunque belli non sono, ma in ogni caso c'è anche, come dire, un aspetto fisiologico del calo di oggi, non lo dobbiamo dimenticare. Io poi tra l'altro da questo vorrei partire, perché non ci dimentichiamo che qualcuno sta smontando delle posizioni speculative, qualcuno sta anche approfittando della crisi spagnola per prendere profitto di quel più 60-70% portato a casa l'anno scorso. Saluto anche Giorgio Mascherone, responsabile investimenti di Deutsche Bank in Italia. Mascherone, buongiorno. Buongiorno. Mi sa che lei l'ultima volta che l'ho chiamata non era proprio un momento così pessimo, non me lo ricordo, però insomma forse lo scorso anno può anche essere capitato, perché qualche momento delicato lo abbiamo rivisto anche l'anno scorso, anche se le borse hanno ripreso a correre tanto da marzo appunto del 2009. Allora, da che cosa cominciamo? Io vorrei leggere ai nostri ascoltatori, anche per fare un po' capire quello che è non tanto quello che è capitato ieri, ma la situazione in cui si trova la Spagna. Volevo leggere con loro questo specchietto, che è abbastanza molto sintetico ma molto chiaro, che ho trovato questa mattina sul quotidiano La Stampa, dove si spiega proprio che cosa è accaduto a Madrid negli ultimi 3 anni. Meno di 3 anni fa, alla fine del 2007, la Spagna era ancora una delle locomotive d'Europa. Il prodotto interno lordo cresceva di quasi il 4%, la disoccupazione era intorno al 6,5%. All'inizio del 2008, l'anno delle ultime elezioni politiche vinte da Zapatero, l'impatto della crisi economica del paese è stato al centro della campagna elettorale. Il timore era che, per la sua debolezza strutturale, l'economia spagnola, basata su settori a scarso valore aggiunto come costruzioni e turismo, sarebbe stata colpita con particolare violenza. Il modello del ladrillo, il mattone, era durato per 10 anni, cementificando con oltre 6 milioni di nuove case le coste e le periferie spagnole, con centinaia di migliaia di case invendute. Nel 2008 cominciano a fallire molte società immobiliari. La crisi finanziaria internazionale ovviamente ha fatto da moltiplicatore, le banche sono state costrette a chiudere il credito alle immobiliari e alle altre imprese, non potendo più rifinanziare i loro prestiti sui mercati mondiali. L'effetto congiunto è stato devastante. Oggi questo paese si confronta con una disoccupazione a quasi il 20%, siamo al 19,5% alla fine del 2009, si prevede che presto sfonderà la soglia del 20%. Marzi, io comincio da lei. Cosa c'entra tutto questo con il debito pubblico e con i rendimenti dei titoli di Stato che ieri sono schizzati, con comunque una domanda molto elevata di titoli di bonus spagnoli? Ci può spiegare questa relazione? Ma la relazione è data dal fatto che è naturale che più peggiora la situazione economica di un emittente, quindi la situazione di bilancio di un emittente può essere una società o una nazione, più naturalmente gli investitori pretendono importi, remunerazioni diciamo così maggiori, quindi tassi di interesse maggiore. In una situazione dove la politica monetaria è sicuramente, quindi tassi zero, è sicuramente il sostegno unico, quasi unico, dell'economia in questo momento, l'avere situazioni di debito dei paesi che aumentano di fatto indirettamente i tassi di interesse può portare preoccupazioni, perché gli investitori si stanno domandando se a questo punto i tassi di interesse cresceranno non tanto per la crescita economica, ma quanto per il peggioramento dei debitori, sia essi stati che società. Quindi questo rialzo dato non da congiuntura positiva dell'economia, ma da peggioramento dei debitori, potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita economica, che è quello che i mercati stanno pensando. Un'altra analisi che ho letto, che mi è sembrata piuttosto interessante questa mattina, anche sul sito del Sole 24 Ore, commentava un trader: è evidente che gli speculatori stanno smontando le posizioni, sta crollando euro, stanno crollando le borse europee, numerosi investitori internazionali che negli ultimi mesi hanno preso a prestito negli Stati Uniti denaro, dove il costo di questo è naturalmente poco più di zero, e hanno investito in Europa, stanno provocando un rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, avevano provocato appunto un rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, adesso invece abbiamo la situazione contraria. Non appena, come in questi giorni, ci sono notizie preoccupanti, vengono smontate le posizioni, quindi si assiste ad un movimento contrario di indebolimento della moneta unica, è repentinamente piombata ai minimi da giugno 2009, di conseguenza c'è il crollo degli indici borsistici e anche dei prezzi dei bond. Mascherone, vengo a lei. Ci spiega invece perché l'euro ha risentito così tanto di tutta questa turbolenza? Ciò che accade sull'euro cela effettivamente una preoccupazione molto più alta tra gli investitori rispetto a quella che riescono ad ammettere? Ma qui di fatto abbiamo visto già anche in passato situazioni di questo genere. Certo, il dollaro soffriva per l'eccessivo indebitamento del governo americano. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti comunque hanno un deficit che in questo momento è molto superiore alla media dei paesi europei, è attorno a un 10%, probabilmente raggiungerà anche un 12%. E il problema è che quasi improvvisamente, dopo che dai primi di dicembre abbiamo visto qualche sofferenza, a cominciare dalla Grecia, che però è uno stato relativamente piccolo, certamente la Spagna spaventa molto di più, quando questo si è allargato ai cosiddetti paesi periferici, quello che gli anglosassoni chiamano un po' spregiativamente i pigs, Portogallo, ci hanno messo anche l'Irlanda con una doppia I, ma purtroppo la I principale è la nostra, poi c'è ovviamente la Grecia e la Spagna. Quindi quando... Però pare che adesso circoli di nuovo solamente con una I, perché l'Italia forse è riuscita ad affrancarsi momentaneamente da questo gruppo, pare. Però lo diceva Riccardo Sorrentino, un collega del Sole, sul Sole 24 Ore proprio ieri. Comunque, ammettendo che ci sia, siamo in cinque a farci compagnia, non è una bella situazione. Assolutamente no, e comunque di fatto la preoccupazione è che questi paesi comunque comportino una situazione di crisi per la moneta unica, indubbiamente la fa rendere più debole. Non è che con tutto ciò gli Stati Uniti in questo momento siano fuori dall'occhio del ciclone, perché gli stessi Stati Uniti, e le parole di Obama di un paio di settimane fa lo hanno chiaramente dimostrato, soffrono di un certo nervosismo, perché il deficit americano è altrettanto molto pesante e c'è una situazione occupazionale che è altrettanto pesante. Quindi purtroppo questi due fattori sono stridenti, perché in condizioni di economia molto debole e quindi di disoccupazione molto alta sarebbe opportuno avere la possibilità di utilizzare la leva della spesa pubblica per poter venire incontro o quantomeno sanare questa situazione. Questo ahimè non è possibile né da una parte né dall'altra dell'Oceano Atlantico, ed è questo che oggi sta spaventando, in quanto c'è un rischio di un'ulteriore frenata economica, probabilmente non così probabile, ma c'è anche il rischio di un'eventuale ricaduta in recessione, anche se in questo momento non sembra essere così vicino questo rischio. Allora, un'altra analisi interessante che vorrei fare adesso a questo punto, la facciamo però nell'ultima parte, nella seconda parte di Salvadanaio, è questa. Cioè, quando qualche mese fa c'è stata la crisi di Dubai, ovviamente quella è subito rientrata e ci hanno detto è un caso isolato, sicuramente quella tensione orientale, in Medio Oriente, appunto, non si propagherà nel resto del mondo. Poi è arrivata la Grecia, come diceva giustamente Mascheroni, insomma, probabilmente quella crisi verrà nelle preoccupazioni arginata, perché è uno stato talmente piccolo che chiaramente verrà un po' tenuto sotto controllo. Adesso c'è anche questa azione di appunto controllo europeo molto forte, e invece poi scopriamo che adesso questo effetto di propagazione si sta manifestando in Spagna e Irlanda. Molti ascoltatori cominciano a destare, ovviamente ad addrizzare le antenne, e chiedono: ci potete ancora raccontare che tutto questo non si propagherà anche in Italia? Ovviamente l'asta sui titoli di Stato della Spagna, di cui parlavamo ieri, al cospetto di quest'asta molti investitori si sono presentati, non è andata deserta, ci sono state però delle condizioni molto precise dettate dagli investitori per poter acquistare appunto i titoli di Stato. Se questo dovesse verificarsi in Italia, che cosa potrebbe succedere? Allora, magari da queste considerazioni partiamo nella seconda parte di Salvadanaio all'800240024. C'è pronta anche una domanda, proprio credo in linea con quanto stavo dicendo, da parte di Francesco da Venezia. Intanto Milano perde il 2,51% in questo momento, sul principale paniere di Piazza Affari non c'è nessun titolo positivo, i titoli che perdono meno sono quelli che vengono ritenuti tradizionalmente difensivi, quindi le utilities, Terna perde mezzo punto, Snam meno 0,7, i peggiori in assoluto abbiamo Mondadori meno 6, Mediolanum meno 5,5, Mediaset meno 5, Pirelli meno 4, tra questi alcuni titoli che l'anno scorso hanno veramente corso tanto, per cui anche, come dire, il calo fisiologico e atteso di questa mattina ci aiuta anche a dare una lettura diversa di questa nuova crisi ripiombata sul mercato negli ultimi due giorni. Allora, questa mattina abbiamo naturalmente, contrariamente al tema che avevamo scelto di analizzare, abbiamo così un po' ribaltato la nostra puntata, perché ci sembrava ovviamente interessante andare un po' a monitorare quello che sta accadendo da ieri sui mercati finanziari. Ieri un calo nettissimo per tutte le borse europee, oggi le cose non vanno meglio, abbiamo cali di almeno 2,5 punti fra i principali panieri, e appunto l'epicentro di tutte queste preoccupazioni delle ultime ore è la Spagna. Peraltro sto vedendo anche sui TG nazionali in questo momento, quello della 7 è appena passato un servizio sulla situazione spagnola e sulle motivazioni per cui questa sta preoccupando in questo momento tanto gli investitori internazionali. Stamattina il commento di questa situazione, appunto lo abbiamo affidato a Giuseppe Marzi, amministratore delegato di Schroeder's Italy SIM, e Giorgio Mascherone, responsabile investimenti di Deutsche Bank in Italia. Allora, tanti punti abbiamo analizzato, peraltro oggi sarà un'altra giornata interessante da monitorare, se non fosse altro perché viene diramato negli Stati Uniti il dato sulla disoccupazione di gennaio, e anche lì, insomma, se dovesse essere un dato pesante, negativo o anche minimamente al di sotto delle attese della comunità economica, probabilmente ne potremo vedere anche ulteriormente delle belle nel pomeriggio. Giuseppe Marzi, un altro piccolo segnale della scossa che poi ieri è stata molto forte sui mercati e che oggi continua ad essere tale, era stato il fallimento di questa asta di bond portoghesi, anche in quel caso un'economia molto piccola, però ancora una volta una situazione che ha confermato la situazione di stress in cui sta vivendo l'Eurozona. In questo caso il Portogallo era stato costretto a ridurre da 500 a 300 milioni di euro un'emissione di titoli di Stato a 12 mesi per cercare di calmierare l'improvvisa fiammata, anche in questo caso, dei rendimenti annui chiesti dal mercato. Allora io le chiedo non di commentare la situazione portoghese, quanto di aiutarci a capire se questa situazione si dovesse verificare in Italia. Lei che cosa ne pensa? Ma io direi che, guardi, l'Italia a mio punto di vista è un paese che, da un punto di vista di, appunto, dell'andamento dell'economia e di come ha affrontato la crisi, è quello che si è comportato tra i paesi europei forse meglio. Nel senso che quello che è piaciuto agli investitori dell'Italia è che comunque ha tenuto molto bene le redini della spesa pubblica e quindi non ha sforato grandemente il deficit. C'è anche da dire un'altra cosa, che il popolo italiano è di per sé per fortuna risparmiatore, quindi se noi facciamo da un punto di vista di consistenza di tutto il debito della nazione, sommando il debito dello Stato con quello dei cittadini italiani, noi vedremo l'Italia decisamente più virtuosa di tanti altri paesi. Quindi io francamente direi che se dovesse succedere ed espandersi questa situazione, forse l'Italia non è tra le prime nazioni dove questo potrà accadere. In teoria l'America potrebbe anche essere messa peggio, visto i programmi di espansione della spesa pubblica e quindi del deficit che ci sono per i prossimi anni. E anche se la Cina dovesse cambiare un po' idea sui massicci acquisti di titoli di Stato americani che sta continuando a fare, anche sostenendo la divisa. Ma sì, ma guardi, guardi, quello che sta succedendo è molto semplice. Il problema è partito nel 2008 con i bilanci delle banche. I bilanci delle banche sono stati salvati con i bilanci pubblici e si è spostato il debito sui bilanci pubblici. E adesso è naturale che si sta a guardare molto attentamente i bilanci pubblici e l'andamento delle spese pubbliche rispetto alle entrate. Questo naturalmente può in qualche modo preoccupare, perché è naturale che tutti gli stati stanno spendendo di più, chi di meno. E questa è una grande differenza. Io credo che i deficit di partite correnti e i deficit di bilancio di alcuni paesi sono molto molto diversi e quindi si sta a guardare effettivamente quale sarà il paese più virtuoso e meno virtuoso e come andranno le sottoscrizioni dei titoli. Certo. È naturale che, a meno che le banche non inizino a ricambiare anche il favore fatto dai governi negli ultimi anni, visto che sono dei grandi investitori istituzionali, magari potrebbero anche sostenere il debito dei governi comprando titoli di Stato, mettendoseli un po' nei propri portafogli. Credo che lo facciano sempre normalmente. Marzi, non lo so se è un giro un po' curioso quello che ho indicato, però credo che funzioni anche così, no? Ma non credo che torneremo al baratto, io credo che, perché sa, se qua le banche hanno problemi negli stati. Beh, però l'ultima asta dei titoli di Stato greci di settimana scorsa è stata sostenuta proprio da un grande consorzio di grandi case di investimento, che ha permesso appunto che l'asta andasse a buon fine e che anzi andasse oltre ogni aspettativa, perché poi i titoli di Stato che la Grecia voleva collocare mi pare fosse di circa 3 miliardi e mezzo, ne ha collocati 8, c'è stata questa grande syndication, quindi tutto sommato non è proprio il baratto becero come quello che conosciamo dai libri di scuola, ma qualcosa del genere. No, ma sicuramente sicuramente, io credo che non è interesse di nessuno far avvitare in una come posso dire, in una situazione infatti, sempre più negativa questo, sia il debito che le banche eccetera eccetera, stiamo naturalmente tutti scherzando col fuoco. Io credo che però questo dia molto humus alle speculazioni, quindi a questi grandi swing, quindi ribaltamenti di fronti con vendite a tutto spiano per poi riacquistare magari a prezzi molto più bassi quando tutti sono paurosi eccetera, chissà magari falliremo tutti, allora minimo di mercato e poi si scopre che ci sarà magari un altro rally da 70-100%. Infatti, allora sul tema tra l'altro del calo per i suoi aspetti fisiologici volevo tornare fra un attimo con Giorgio Mascherone, però ho un paio di ascoltatori a cui forse ho anche rubato la domanda, ma io credo che la articoleranno in maniera sicuramente più interessante della mia. La loro, Francesco da Venezia, buongiorno. Sì, un carissimo buongiorno alla conduttrice. Grazie. Appunto, sempre squisita. Grazie. Io volevo fare presente una massima di John Kenneth Galbraith, che ha fatto un meraviglioso libro ancora nel 1955, Il grande crollo, che parla del 29. E lui dice espressamente: il mito della concorrenza descrive la borsa come il più impersonale dei mercati. E tutti sono disposti a credere questo, però in qualche punto nelle vicinanze pensano anche i più grandi magnati di Wall Street, essi pensano che ci siano degli altrettanti grossi personaggi che fanno salire e scendere i titoli. In parole povere, abbiamo sempre il mito del complotto, di queste speculazioni, certamente ci sono, però secondo un mio punto di vista, io che sono un piccolo risparmiatore, il problema è un altro, e cioè, mi spiego in poche parole, sì. Noi non possiamo continuare come piccoli risparmiatori a pensare di comprare un titolo greco scadenza, parlando di cifre squisite, al 3,5% scadenza 2015 a una quotazione alla pari. In questo momento vogliamo scontare 6 o 7 punti, lo Stato subirà tra poco un ennesimo downgrading e così il Portogallo. In parole povere. Esatto, la sintesi di tutto questo qual è, Francesco? Che dobbiamo cominciare a cambiare proprio il nostro atteggiamento come risparmiatori? E come risparmiatori noi, se dobbiamo comprare dei titoli pubblici, io parlo come piccolo risparmiatore, definendomi volgarmente come una piccola zecca che succhia il sangue che i grossi speculatori talvolta si abituano a succhiare, in questo caso dagli stati sovrani. Ma io, se devo comprare un titolo portoghese, spagnolo, e credo come succederà nel giro di 2 mesi in Italia, devo almeno spuntare, come per la Grecia, un 6%. E qui chiudo. Grazie. Grazie di tutto. A lei, Francesco. Adesso io onestamente non capivo dove volesse arrivare il nostro ascoltatore. Noi in realtà quello che vogliamo far passare di messaggio, Mascherone, mi aiuti lei, poi andiamo anche a, come dire, al ribasso e alla sua componente anche fisiologica dopo i forti rialzi dell'anno scorso. Ma abbiamo sempre scoraggiato ogni tipo di atteggiamento speculativo, lo vorremmo lasciare ai grandi investitori, ai grandi in portafogli, che possono essere appunto i vostri e non naturalmente quelli dei piccoli risparmiatori che ci ascoltano. Abbiamo sempre cercato di far passare il messaggio che comunque ad un rendimento elevato corrisponde a un rischio elevato, e questo lo stiamo già vedendo anche da quello che sta cominciando a verificarsi in questi giorni. E ha ragione nella sua considerazione il nostro ascoltatore, secondo lei? Ma sì, è il solito discorso, cioè se voglio spuntare, ma qui basta tornare indietro di pochi anni, andiamo a vedere cosa è successo con Argentina, Parmalat, voglio spuntare dei rendimenti piuttosto interessanti, per non dire molto alti, devo comunque mettere in conto che c'è una componente di rischio. Quello che mi sento di dire comunque sempre, e in particolar modo quest'anno, perché quest'anno sarà molto più difficile che nel 2009 fare investimenti di qualsiasi tipo, siano essi obbligazionari o azionari, è che è molto difficile, bisogna fare uno stock, comunque una ricerca del nome, si è su obbligazionario e azionario molto attento per cercare di abbassare i rischi e massimizzare i profitti. E questo è un anno in cui più che in ogni altro momento è opportuno consigliare agli investitori di affidarsi a degli strumenti che lo possono fare con maggiore attenzione, in questo modo i fondi o anche gli ETF, ma questo è più forse un anno da fondi che da ETF, francamente. Bisogna cercare quindi più di diversificare al massimo, insomma, proprio per spalmare ogni possibile rischio. Assolutamente sì. Poi certo ci può essere una componente piccola o grande in funzione delle potenzialità di ognuno di noi di portafoglio in cui si può andare a cercare un po' di pepe, però è indubbio che i rischi ci possono essere e quindi questi alti rendimenti sono fatti anche a fronte di questi rischi. Se guardiamo più che il rating delle case, bensì i famosi CDS, ovvero quello che volgarmente viene definito un'assicurazione contro il rischio di default, alcuni paesi, Grecia, Spagna e in trascinamento anche gli altri, stanno vedendo questi valori alzarsi in maniera brusca, sì, brutale, la Grecia in particolare. Questi sono gli indicatori da tenere ben sotto controllo. Lo indicava proprio, e lo abbiamo citato più volte questo articolo nei giorni scorsi, Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, che spiegava proprio il meccanismo dei credit default swap, queste speciali polizze per assicurarsi contro i default, e spiegava come per esempio in un medesimo paese, per esempio nella Spagna, adesso costa di più assicurarsi proprio contro il default dello Stato piuttosto che contro il default o la bancarotta di una singola azienda, e quindi nel rischio insolvenza gli Stati stanno battendo proprio le imprese. Non sono ancora riuscita a farvi commentare, come dire, la natura parzialmente, se c'è, se lo ritenete, fisiologica di questo calo tra ieri e oggi, cioè vorrei proprio capire se la questione spagnola, così come quella portoghese, potenzialmente quella irlandese o anche quella italiana e prima ancora quella greca, sono questioni che vengono prese a scusa dagli investitori per trarre profitto dai guadagni dello scorso anno. Noto con piacere che sta copiosamente nevicando su Milano, vabbè, tanto è febbraio, direte voi, che cos'altro deve fare. Piove ancora intanto sui mercati, perché qua la situazione si sta ancora deteriorando rispetto all'apertura e quindi sta peggiorando la situazione dopo una giornata già vissuta sull'ottovolante ieri sui mercati internazionali. Adesso Milano sta perdendo il 2,62%. Ora ritorniamo ai nostri interlocutori di questa mattina. Sento Angelo da Venezia, poi andiamo alle altre domande a Giuseppe Marsi e a Giorgio Mascherone. Angelo, benvenuto. Salve Deborah, buongiorno. Buongiorno a lei. In parte mi è stato risposto, una piccola parte, cioè io mi stavo chiedendo rispetto agli altri paesi di questa dei PIGS, no? Sì. Portogallo, Irlanda, eccetera, eccetera. Cioè, noi di che cosa ci dovremmo consolare? Forse, come diceva il suo interlocutore, del fatto che le famiglie continuano a risparmiare tanto, poverette, no? Ma solo di questo, perché cioè, mi preoccupa tanto un'altra cosa. Dico, la Spagna so che ha messo in cantiere 50 miliardi di risparmi di spesa pubblica nell'arco, mi pare, di 3 o 4 anni, no? Ma noi, il cui sistema produttivo si sta molto impoverendo, per cui ci sarà sempre meno aziende che pagheranno tasse, dove il controllo di spesa l'abbiamo fatto semplicemente perché il nostro Stato, si dice a Venezia, no geseras kei, voglio dire, non c'è trippa per gatti, non c'era. No, ma alle banche il nostro Stato che cosa ha dato? Ha fatto i Tremonti Bond che non li hanno presi nessuno, no? Allora, voglio dire, il controllo di spesa che diceva il suo interlocutore è perché proprio non potevamo fare altro, anzi abbiamo per un piatto di lenticchie per 5 miliardini di euro abbiamo fatto rientrare tanti le stufanti con lo scudo fiscale, e voglio dire, mi dite se mi riuscite a consolare, a parte il risparmio delle famiglie, la classe politica non sta mettendo in cantiere nessun risparmio di spesa, anzi ci sono più ministri, più sottosegretari, eccetera, eccetera, no? Sì. Per meriti sul campo, ma di che cosa ci possiamo consolare? Allora, lo chiediamo a Giuseppe Marsi, a Mascherone. Marsi, che era soprattutto, mi sembra lei, no, che all'inizio avesse affrontato un po' più nel dettaglio il tema, quando le ho chiesto la questione italiana, quando le ho chiesto appunto se quello che abbiamo visto in Spagna nelle ultime ore dovesse verificarsi mai in Italia. Dobbiamo consolarci di che cosa nel nostro paese? Del fatto che per esempio il nostro Stato non è dovuto intervenire a ricapitalizzare nessuna banca e addirittura lo strumento messo a disposizione per le banche non è stato in larga parte utilizzato, soprattutto dai colossi del credito? Dobbiamo consolarci del nostro risparmio, dobbiamo consolarci del fatto che anche se a rendimenti praticamente rasoterra le nostre aste dei titoli di Stato sono ancora molto frequentate, i nostri bot sono richiestissimi, di che cosa? Marsi? Ma vorrei dare dei numeri, perché sì, con i numeri sono asettici e non politici, per cui credo che in questo argomento si rischia veramente di entrare in politica, che non vorrei. Allora, vi faccio questo esempio. Il debito in Italia, il debito pubblico è 115% del PIL e dovrebbe dovrebbe andare intorno al 2011 a 118, quindi 3% di incremento. Se guardiamo quello tra quello greco e al 120. Allora sì, però non è tanto il quanto ha, ma la progressione di crescita che preoccupa moltissimo. Se voi pensate che la Spagna aveva il 36,1% di debito nel 2001 e nel 2007 è al 74%. Ha raddoppiato. Voi pensate ad esempio, non so, a una Inghilterra che aveva nello scorso anno era al 44,2 ed è previsto 88,2 nel 2011. Quindi raddoppiato anche questo. Quindi io che cosa sto dicendo? Sto dicendo che l'Italia, pur partendo con uno stock di debito importantissimo, e forse ha ragione anche il risparmiatore, siccome non c'erano soldi, è stata molto più, come posso dire, ligia ad aprire il borsellino di spesa, no? Contrariamente a altri paesi che per far ripartire l'economia e per salvare le proprie banche hanno proprio spalancato i portafogli. Questo che cosa porta? Porta al fatto che magari l'Italia 3% ogni due anni di aumento di debito potrebbe essere tranquillamente raggiunta in uno o due anni e superata dall'Inghilterra o da qualsiasi altro paese. Cioè, quello che mi sta dicendo in sostanza è che l'Italia è già abituata a gestire situazioni appunto di debito pubblico molto importante da sempre, per cui non ha avuto una situazione di emergenza tale da far rientrare in maniera in tempi repentini, per cui questo è quanto ci può rassicurare? Questo è un secondo fattore che il sistema bancario italiano è un sistema molto più domestico che non quello degli altri paesi che diciamo così sono stati oggetto di maggiori problemi e che sono partiti, come ripeto, dalla situazione delle loro banche che erano esposte su investimenti internazionali che poi hanno avuto dei grossi problemi. Giorgio Mascherone, torno a lei, questa domanda che è praticamente in sospeso da tutta la trasmissione. Allora, lo scorso anno, dai minimi del 9 marzo fino a dicembre scorso, qualche piazza finanziaria ha visto le sue quotazioni raddoppiare, addirittura qualcuna è cresciuta di oltre il 100%, mi riferisco a listini non europei, ma naturalmente anche in Europa abbiamo visto più 50, più 60, più 70%. Allora io mi chiedo, la questione prima greca, poi quella portoghese di due giorni fa, ieri quella spagnola, sono delle scuse che stanno inducendo gli investitori ad incassare quanto hanno guadagnato lo scorso anno e quindi stanno enfatizzando con questo comportamento anche la crisi spagnola, oppure no? Insomma, è di questo avviso lei o di avviso contrario? Ma direi un po' e un po'. È ovvio che la scusa c'è sempre, anche perché delle prese di profitto sono quasi automatiche, anche se non è proprio questo un momento dell'anno dove normalmente si cerca di fare prese di profitto. Però quello che vediamo anche nel comportamento degli investitori, che di fronte a una situazione di questo genere di paura che possa esserci di nuovo una caduta dei mercati, dicono: beh, quanto ho guadagnato? Il 40, il 50, il 30, il 70, portiamo a casa, intanto vediamo. E quindi questo è uno dei motivi che autoalimenta le cadute dei mercati di questi giorni, che altrimenti non sono giustificate da fondamentali, detto sinceramente. Quindi più un momento di panico e tra l'altro di approfitto di questa presa di panico, di questo momento di panico. In generale i prezzi di quasi tutti gli indici, di quasi tutti i mercati non sono stressati, né come fondamentali né come valori, quindi onestamente non è giustificato pensare che da questo momento in poi è opportuno uscire e quindi rivedere un'altra situazione di crisi. C'è la preoccupazione che l'economia, finora sostenuta artificialmente dalla spesa pubblica di cui abbiamo tanto parlato, nel momento in cui la spesa pubblica ha il fiato corto e non ce la fa più, non sia in grado di camminare con le proprie gambe. Per questo i prossimi mesi e probabilmente tutto il primo trimestre e forse anche qualcosa da oltre saranno importanti per valutare quanto questo ammalato in convalescenza sia in grado di alzarsi dal letto e cominciare a camminare da solo senza più essere sostenuto dalle flebo governative e monetarie. Però direi sostanzialmente queste sono le analisi che si possono fare oggi senza tranciare dei giudizi definitivi, perché ci sono molte variabili. A cominciare, lo vedremo fra poche ore, perché alle 2:30 vedremo il famoso dato della disoccupazione. E infatti, non sarà stravolgente, ma qualcosa ci dirà. E infatti, sono sicura che se l'economia americana dovesse aver creato in gennaio appena 100 posti di lavoro in più rispetto alle previsioni degli analisti, sarà già un fattore sufficiente, almeno credo, così un po' osservo i mercati da qualche tempo, per provocare un piccolo rimbalzino. Tra l'altro lo vedo anche adesso, perché gli indici stanno un po' migliorando rispetto a prima. Adesso abbiamo un calo di circa 2 punti tra Parigi, Londra perde un po' meno, -1,79, il FTSE MIB -2%. Allora, io non riesco a far intervenire Paolo da Verona, voleva chiedere una piccola analisi sul rapporto e previsioni euro-dollaro. Lascio gli ultimi 30 secondi di tempo a Giuseppe Marzi, affidandogli anche un altro messaggio di un altro ascoltatore, Andrea, che ci dice: mi chiedo cosa resta da comprare, tolte anche le obbligazioni statali, resta solo il materasso. Io la invito a questa conclusione, Marzi: sarà comunque un anno, anche alla luce di quello che abbiamo visto nelle ultime ore, in cui probabilmente, mettendolo dove lo vogliamo mettere, il nostro risparmio probabilmente non ci farà spuntare, come dire, soddisfazioni clamorose. Sarà ancora un anno di grande prudenza e grande cautela, da quello che posso capire, se almeno le avvisaglie sono corrette. Ma le avvisaglie sono sicuramente per un anno volatile e molto difficile, però io invito tutti a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Quando i prezzi scendono ci sono delle opportunità buone di acquisto, quindi io continuo a dire agli ascoltatori: comportatevi come con le case. Quando scendono i prezzi immobiliari tutti si fiondano a comprare le case in America col dollaro basso e i prezzi delle case basso. Ecco. Magari avremo l'occasione per comprare in modo più conveniente anche altri tipi di investimenti, altre asset class, come certo. Si chiamano in gergo. Grazie molto a Giuseppe Marzi e Giorgio Mascherone per averci dato la loro disponibilità questa mattina, praticamente chiamati all'ultimo minuto. Intanto la borsa, vi dicevo, perde il 2% su Piazza Affari, -2,21 sul FTSE MIB. Noi ritorniamo lunedì, buon fine settimana a tutti.